È una misura che non è ancora chiara nei suoi contorni, si parla di 12 ore, poi sulla stampa ho visto notizie che parlavano di un fermo di 48 ore addirittura. Qual è l'aspetto più problematico? L'aspetto è che in una democrazia costituzionale la libertà personale è garantita dall'intervento della magistratura, questo è un principio fondamentale dello Stato di diritto. Ecco, con questa riforma questo principio verrebbe in un certo modo scardinato, perché si prevederebbe la possibilità di intervenire sulla libertà personale da parte dell'autorità di polizia senza un controllo di legalità da parte della magistratura, e questo è del tutto incompatibile con la nostra carta costituzionale, con l'articolo 13 della Costituzione che dichiara che la libertà personale è inviolabile. Ho sentito poi esponenti della maggioranza fare il parallelismo con il DASPO, c'è però una grossa differenza: il DASPO, che già è stato sottoposto a numerosi dubbi di costituzionalità, comunque non è una forma di privazione della libertà personale, ma di limitazione della libertà di movimento. Qui invece si parlerebbe proprio di una detenzione, in un certo modo, sottratta al controllo di legalità, e questo mi sembra davvero incompatibile con uno Stato di diritto. Sono in corso approfondimenti tecnici per capire se riescono in qualche modo ad applicarla. Spesso tra le giustificazioni viene detto che riguarderebbe soggetti che hanno precedenti per reati, insomma, di questo tipo, già noti alle forze dell'ordine, però questo non cambia. Ecco, anche questo è un molto pericoloso come messaggio che si vuole trasferire, cioè l'idea che un soggetto, in quanto considerato pericoloso perché ha avuto dei precedenti, allora per questa sua caratteristica potrebbe essere sottratto al vaglio di legalità della magistratura. Questo è proprio degli stati che non sono più democratici, questa è una deriva ungherese, perché il principio invece che deve essere ben fermo è che si può essere privati della libertà solo se si è commesso un reato, solo se si è già commesso un reato, non in vista di evitare la commissione di un reato, perché mettere in carcere i soggetti detenuti considerati pericolosi da parte della polizia, questo è veramente un qualcosa che, ripeto, segna un superare una linea rossa. Spero che non si arrivi ad approvarlo. C'è poi un'altra misura che sta facendo discutere, ad esempio ha sollevato critiche da parte della CGIL, che riguarda questa cauzione, questa fideiussione che gli organizzatori di manifestazioni dovrebbero versare anticipatamente e come garanzia finanziaria in caso di danni, incidenti durante le manifestazioni. Beh, anche questo mi sembra una misura che davvero risulta difficilissimo vedere compatibile con la Costituzione, perché pone dei limiti di censo, di disponibilità economica per l'esercizio del diritto di riunione, che è un diritto riconosciuto a tutti dalla Costituzione. Sono cose talmente ovvie che quasi si è in imbarazzo a dirle come giuristi, ma fondamenti di uno Stato democratico sono che la libertà non è nella disposizione della polizia e che si può manifestare il proprio pensiero anche con riunioni, manifestazioni liberamente. Se si mettono in crisi questi due pilastri, si mette in crisi quella che è la realtà di un sistema democratico. Immaginare quindi che un soggetto che non ha disponibilità economica, a questo punto vuol dire che non posso organizzare una manifestazione se non ha disponibilità economica. Questo con la democrazia non ha nulla a che vedere. C'è poi una questione anche, no, sul fatto che il nostro ordinamento prevede che la responsabilità penale sia individuale, quindi magari chi provoca danni durante una manifestazione non è detto che sia l'organizzatore. Assolutamente, e appunto i principi già della responsabilità civile e della responsabilità penale già prevedono che chi compie durante una manifestazione, con il pretesto di una manifestazione, dei danni ne risponderà personalmente in sede civile e in sede penale. L'idea che preventivamente io debba avere a disposizione una somma di denaro anche non così trascurabile, mi sembrava si parlasse di 10-20 mila euro, è qualcosa che non ha nulla a che vedere con il chiamare a rispondere dei danni cagionati chi li ha effettivamente cagionati. Significa limitare la libertà di manifestazione del pensiero. C'è poi un'ulteriore misura, ce ne sarebbero tante, però insomma tra quelle che si discutono in queste ore, che riguarda lo scudo penale per gli agenti delle forze dell'ordine. È un po' di tempo in realtà che si parla di questa cosa, e chiedo di aiutarci a capire cos'è e se è problematica. Sì, sicuramente è problematica. Anche in questo caso poi sarà molto importante vedere come effettivamente la norma sarà scritta. Sembra di intuire appunto dalle anticipazioni rivoluzioni di stampa, dalle bozze circolate, che si voglia prevedere che quando è evidente che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione come la legittima difesa, non dovrebbe neppure avvenire l'iscrizione nel registro degli indagati dell'autore del fatto. Ecco, come dicevo, non è molto chiaro qual è il significato di questa riforma, perché l'iscrizione nel registro degli indagati, al di là delle strumentalizzazioni mediatiche, è prima di tutto un atto a garanzia dell'indagato, a garanzia dell'indagato che può intervenire nel procedimento. Ecco, la cosa che mi sembra più pericolosa è che si dà l'idea, pensiamo all'ultima vicenda, quella dei poliziotti che hanno reagito di fronte al soggetto che sparava nei confronti della loro macchina e ovviamente sono stati iscritti nel registro degli indagati. Perché dico ovviamente? Perché a livello mediatico si dà questa rappresentazione del tutto falsa, per cui questi poliziotti, ho sentito addirittura, rischiano l'ergastolo. In realtà non è affatto così. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto posto a loro tutela e se i fatti sono effettivamente come descritti, questi soggetti non avranno nessuna conseguenza né penale né disciplinare. Ma è incredibile che si possa immaginare che se qualcuno muore, se un poliziotto spara qualcuno e lo uccide, comunque quel soggetto è morto. L'idea che non si apra neppure un procedimento penale per accertare i fatti è semplicemente una barbarie. Sembrerebbe che la vita di un soggetto che, anche se ha commesso un reato, la vita di quel soggetto comunque contava. Se è stato ucciso da un colpo di pistola, degli accertamenti vanno fatti. Vanno fatti perché altrimenti arriviamo a quella che è appunto la deriva americana, per cui gli agenti dell'ICE sono coperti dall'immunità assoluta dichiarata dal potere esecutivo. Ecco, se questa è la direzione, non si può che essere preoccupati anche proprio per questa perdita di umanità. Cioè, se muore un rapinatore, allora non è neanche... neanche bisogno di aprire un fascicolo per valutare effettivamente cosa è successo. Mi sembra veramente inquietante che si stia diffondendo nell'opinione pubblica questa mancanza di umanità, di empatia nei confronti di una vita che comunque è stata troncata, anche se legittimamente. Sullo scudo penale il governo dice che era per evitare, come dire, i provvedimenti che si adottano appunto sul luogo di lavoro degli agenti, cioè ad esempio la sospensione dal servizio e dello stipendio. Però, ma non è affatto vero, anche questa è una falsità. Cioè, il fatto che io sia iscritto sul registro degli indagati perché nel corso del servizio c'è stato appunto un episodio con la morte, non è affatto automatico che io venga sospeso dal servizio e dallo stipendio. Non è affatto così. Ci sarà una valutazione da parte degli organi di polizia, dei superiori del soggetto, che valuteranno se ci sono gli estremi per, se la dinamica è una dinamica che sembra far emergere in modo evidente la presenza della legittima difesa, non c'è alcuna necessità di sospendere la gente dal servizio né dallo stipendio. Quindi questa è una vera e propria falsità. Il problema è ovviamente nei casi in cui sia controverso che cosa è successo. Allora in quei casi la gente può essere sospesa dal servizio. Ma ripeto, non è una scelta della magistratura, quella è una scelta degli organi di polizia, quindi tutta interna alla polizia. Si rischia di creare degli spazi di impunità con questa misura? Certo, perché il rischio è proprio quello, come dicevo, sembra di volersi incamminare sul modello dell'ICE, no? Dell'impunità totale. Questo nel nostro ordinamento non è possibile, sicuramente non sarebbe possibile, sarebbe incostituzionale. E ho anche il sospetto, appunto, bisogna prima vedere la norma come sarà scritta, ma che difficilmente questa norma supererà un vaglio di costituzionalità. Ripeto, anche per può sembrare paradossale, ma anche perché in questo modo praticamente si toglie una garanzia all'indagato di poter, ad esempio, faccio un esempio per gli ascoltatori molto semplice: l'avviso di garanzia è quello che mi dà la possibilità, ad esempio, di nominare un mio consulente che assista, ad esempio, all'autopsia, cioè tutti gli atti ripetibili. Se non sono iscritto negli indagati, quindi se non ho nessuna veste formale, non potrei neanche inviare un mio consulente ad assistere agli accertamenti. Allora sembrerebbe quasi un paradosso, però come dicevo, è difficile esprimersi se ancora non vi è il testo della norma che si vuole introdurre.